Enrico Pagliarini, oggi al posto di Simone Spezia, sono le 13 in punto, queste le notizie dell'edizione di oggi di Effetto Giorno. Nuovo record storico per il rendimento del BTP, il decennale scivola sotto il 3%. L'Unione Europea firma un accordo con l'Ucraina, ma Mosca reagisce e dice ci saranno conseguenze. I leader europei a Bruxelles ancora in cerca di un'intesa sul futuro dell'Unione. Londra ultimo ostacolo sulle riforme e sulle nomine. Chiellini perdona Suarez e critica la FIFA, troppi 4 mesi di squalifica. Ancora una buona giornata, iniziamo da questa notizia che riguarda il rendimento dei BTP decennali. Questa mattina è stato registrato un nuovo calo record, il rendimento del BTP scadenza 10 anni è sceso sotto il 3% al 2,81% con una riduzione di 0,2 punti rispetto alla precedente asta. In deciso calo, meno 0,26%, anche i rendimenti del BTP a 5 anni che scendono all'1,35% sono i risultati dell'asta di questa mattina. Allora, l'Unione Europea ha firmato accordi di associazione con l'Ucraina, la Georgia, la Moldova, 3 paesi che sono nati con la frantumazione dell'Unione Sovietica, ma sull'accordo pesa anche la reazione di Mosca, di questo parleremo tra poco con un nostro servizio. Adesso ci colleghiamo invece con Bruxelles per cercare di capire, al di là di questo accordo che è stato già firmato, tutti gli altri accordi che devono essere presi sul futuro dell'Unione, sulle nomine, quindi anche sul funzionamento della macchina dell'Unione Europea, a che punto siamo? Enrico Brivio, buongiorno. Buongiorno. Dunque, siamo arrivati intanto a una bozza più avanzata del documento che dovrà delineare le strategie europee per i prossimi 5 anni in materia economica e non solo. E c'è soddisfazione da parte italiana perché si è fatto un riferimento più esplicito all'uso migliore che si deve fare della flessibilità presente nel patto di stabilità, ovvero insomma una maggiore flessibilità nell'interpretazione delle regole economiche, tenendo conto soprattutto dei costi delle riforme strutturali che avvengono in un contesto di crescita molto bassa. Quindi c'è una soddisfazione italiana perché c'è stato inserito un riferimento più esplicito nel testo. Per quanto riguarda invece le nomine, siamo ancora ovviamente in una situazione di dibattito e di scontro tra gli alcuni versi. Il favorito rimane Jean-Claude Juncker per la poltrona di Presidente della Commissione Europea, come sappiamo però c'è questo grosso ostacolo della opposizione britannica, in particolare il modo di David Cameron, che non lo vuole perché lo considera troppo federalista. Addirittura adesso i media inglesi sono anche scesi sul piano personale, osservando come sia Juncker un bevitore e fumatore accanito, Telegraph è sceso giù pesante con Enrico, usando tutte le armi. Senti, Enrico, questo è l'unico nome su cui ci si sta scontrando o ci sono anche altri nomi? Dunque, questo diciamo era la carica chiave perché è anche frutto insomma del risultato delle elezioni. Chiaro che se scemasse la candidatura Juncker potrebbe un po' riprendere quota anche la possibilità di avere Enrico Letta come Presidente del Consiglio, che è ben visto soprattutto dai francesi e dagli inglesi. Poi ci sono tutte le altre cariche, in particolare quella di alto rappresentante per la politica estera, in cui come sappiamo un'ipotesi sul tavolo caldeggiata dal governo italiano era quella di avere il nostro ministro degli esteri Federica Mogherini, che rimane ben piazzata. Il problema è che i socialisti europei potrebbero avere probabilmente una delle due cariche a Palazzo dei Popolari, o il Presidente del Consiglio o l'alto rappresentante della politica estera, ma è difficile che riescano a strappare entrambe le cariche, quindi ci sono tutti questi problemi di compatibilità. Sì. Senti, a questo punto quando potremo avere notizie più certe? Ma probabilmente nel pomeriggio, il vertice dovrebbe finire, si dice, verso le 5, le 6, però dipende anche da come procederanno le discussioni, fino a che punto questa opposizione a Juncker frenerà l'opposizione inglese a Juncker la nomina, o se si dovrà invece passare ad altri tipi di compromesso. Sul testo, diciamo, della strategia, essendo comunque un testo generico, sì, non dovrebbero esserci delle grosse sorprese. No, non credo ci saranno grosse sorprese. Benissimo, ci sentiamo più tardi. Grazie a Enrico. Grazie. Ad Enrico Brivio, collegato con noi da Bruxelles. Adesso, a proposito di questo accordo di cui abbiamo parlato prima con l'Ucraina, la Georgia e la Moldova, ma in modo particolare con l'Ucraina, che ha fatto arrabbiare Mosca. Sentiamo il particolare in questo servizio. Tensione alle stelle tra Mosca e Kiev. La firma dell'accordo di associazione tra Ucraina e Unione Europea ha scatenato la reazione furiosa della Russia, che ha minacciato serie conseguenze. Per Putin è il risultato del colpo di Stato anticostituzionale che ha portato alla deposizione del presidente Yanukovych. Ma facciamo un passo indietro. La firma dell'accordo sarebbe dovuta avvenire in origine alla fine dello scorso novembre, ma saltò in extremis per decisione dell'allora presidente, il filo russo Yanukovych, che optò appunto per un riavvicinamento nei confronti di Mosca. Di fatto l'accordo di oggi porta legami più stretti in materia politica ed economica tra Unione Europea, Ucraina, ma anche Georgia e la Moldavia. Ma la Russia non deve avere nulla da temere, rassicurano Van Rompuy e Barroso, che parlano di giornata storica, così come ne parla il presidente ucraino Poroshenko. It's absolutely new perspective for my country. And I think this is one of the most historic day after getting the independence. È il risultato di un lavoro durato 7 anni ed è una prospettiva assolutamente nuova per il mio paese, dice Poroshenko. L'unica cosa di cui ora abbiamo davvero bisogno è però la pace e la sicurezza. Una pace che però oggi appare sempre più difficile dopo che si è rotta definitivamente la tregua annunciata una settimana fa. I miliziani separatisti si sono impossessati di una base militare della Guardia Nazionale Ucraina a Donetsk. Dopo 7 ore di combattimento hanno preso prigioniero il comandante del battaglione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Chiudiamo alle 13:07 minuti questo capitolo dedicato all'Unione Europea, a tutti gli accordi che dovranno essere presi nel corso delle prossime ore. Adesso torniamo a Roma, andiamo a Roma, riforma del Senato, se ne discute ancora. Sentiamo quali sono le ultime novità. Elisabetta Fiorito, in diretta da Montecitorio, buongiorno. Buongiorno, sì, i nodi restano, ma intanto le riforme vanno avanti, continua lo scontro a distanza tra Forza Italia e il Movimento 5 Stelle, in mezzo il PD con i senatori dissidenti. Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle parla di caos e del fatto che i grillini siano arrivati al momento giusto per aiutare i cittadini. Dice Di Maio, 19 senatori del PD si sono dichiarati contrari al Senato non elettivo, altri 4 di Forza Italia si sono associati, ma sarebbero un terzo quelli del partito di Berlusconi. Intanto Beppe Grillo torna ad attaccare sull'immunità. A frenare però gli umori 5 Stelle ci pensa Roberto Giachetti, l'esponente del PD è per il rispetto del patto del Nazareno, ricordiamo quello tra Renzi e Berlusconi sulla legge elettorale. Una volta che c'è stato l'accordo tra PD e Forza Italia, dice Giachetti, bisogna andare avanti. Ma il vicepresidente della Camera Giachetti pone anche il veto sulla libertà di coscienza. Se la riforma del Senato non viene approvata, dice, allora bisogna andare al voto. Riguardo all'Italicum poi, Forza Italia continua a dire no alle preferenze, sono inaccettabili, dice Romani, un fenomeno di corruzione. E a te allora, Enrico, la linea. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Adesso parliamo di benzina, perché alcune associazioni dei consumatori chiedono un intervento del governo contro la raffica di rincari per benzina e gasolio di questi giorni. Dopo gli aumenti di ieri decisi dall'Eni a mettere mano ai listini sono stati oggi Tamoil, Shell ed Esso. Secondo la rilevazione di Quotidiano Energia, le medie nazionali servite della benzina e del diesel sono adesso di 1,853 e 1,749 euro al litro. Per il GPL siamo a 0,755, il massimo lo tocca la Verde in alcune aree del paese a 1,910. Naturalmente stiamo parlando di carburante servito e non di self-service, e naturalmente di marche note, quindi dove normalmente il gasolio e la benzina costano di più. A proposito di numeri, ecco quelli diffusi oggi dall'Istat. Risale la fiducia delle imprese, mentre l'occupazione resta al palo. Sono in chiaroscuro i dati odierni dell'Istat, segno che il percorso di uscita dalla crisi rimane lungo e tortuoso. Ma andiamo con ordine. A giugno la fiducia delle imprese è tornata a crescere, dopo che a maggio aveva subito una battuta d'arresto. In alcuni comparti, poi, come la manifattura e il commercio al dettaglio, l'indice raggiunge i livelli migliori da 3 anni a questa parte. segnali decisamente meno confortanti sul fronte del lavoro. L'occupazione nelle grandi imprese, al netto della cassa integrazione, ad aprile è rimasta invariata rispetto a marzo, ma nel confronto con lo stesso mese del 2013 si registra un calo dello 0,6%. E le cose, sempre parlando delle aziende più grandi, non vanno meglio sul fronte delle retribuzioni, con una flessione dell'1% rispetto a marzo e dello 0,6% rispetto ad aprile 2013. Intanto indicazioni non particolarmente confortanti arrivano anche dall'Eurozona, con l'indice di fiducia economica che a giugno, a dispetto delle attese, è tornato a calare. Massimiliano Zampini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di corruzione, i nuovi poteri dell'unità operativa e le proposte per arginare la corruzione dopo la bufera su Expo. A giorni si partirà per attuare il decreto. Sentiamo come. Sfida alla corruzione. Interventi a tutto campo, anche sul passato. La settimana prossima partiranno i controlli su tutte le gare e le procedure di Expo per evitare che si ripetano casi di appalti poco chiari. È il compito affidato al presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone dal governo e per questo ha il potere di controllare i dossier che ormai l'estinta autorità di vigilanza dei contratti pubblici gli ha consegnato.